Il demone mi sta cercando nelle periferie della mia mente, nell'anima ho qualcosa che ripetutamente batte nel cuore pesantemente. Sarà la vibrazione di questa musica, non è un'opinione, se ogni mia lirica spacca come se cantassi il mio cognome in greco o in latino per farti impaurire. Questa musica è in overdose astinenza e vuole scoparti, sì, il cervello, bitch, voglio scoparti il cervello. Parto dalle orecchie, ti scopo fino a che ti viene un cazzo a te in testa. Rimane questa la storia guest di una grande astronave, rimango qui a parlare ore e ore, microfono che non si spegne, non si sono liriche opposte, ricordiamo le nostre supposte verità, quello che dico dall'aldilà di fa crepare, rimani qua il mio arsenale, rimangono metriche oscure che non posso nemmeno dire a me stesso, neanche al diavolo confesso, queste cose rimarranno le mie segrete scure spose. Le mie segrete oscure spose, le mie segrete oscure spose. Entro nelle mie segrete, il castello che possiedo dentro, seppellito dal cemento, un castello seppellito dal cemento. Uso la mia base per distruggere tutto questo cemento e tornare a splendere sotto il sole. Rimangerò qui altre 2-3 ore a cantare, sia mai che mi venga fuori una bella canzone. Rimane il mio rap a festare, rimane nella base il mio arsenale, metriche da conquistare. Rimane qui una scrivania e qualcosa per creare. Uno studio sta prendendo il volo, uno studio sta prendendo il volo, uno studio sta prendendo il volo, uno studio sta prendendo il volo. Sono come Fabio Volo con un microfono in mano, aeroplano, so volare, vi porterò dove nessuno ha portato nessun altro. Rimaniamo qui a cantare, rimango dell'informatore, l'informatore più preciso, quello che racconta ciò che ha nell'anima inciso, a lettere cubitali il dolore provato, riferito solo con uno sputo, spa! E abbiamo ancora una strofa. Fuoco di gel, questa qua ha capito che io capisco com'è la base, ci parlo sopra come un mito. Sono un dinamitardo, uno bastardo, uno testardo, un cane che hanno picchiato in 50 e adesso si vuole vendicare perché un cane ferito prima o poi morde, no? C'è pazienza qui con la penna che vuole scrivere anche lui una cosa e senza me non ci sta più. Non siete digiuni, siete quelli lì che fanno mangiate e poi bevono la nostra pancia. Siamo la fratellanza oscura e vogliamo mangiare anche noi stavolta. Vogliamo mangiare anche noi stavolta. Vogliamo mangiare anche noi stavolta. Vogliamo mangiare anche noi stavolta. Stavolta.